sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Fisso il filo spinato, il muro con il filo spinato della Casa del Volontariato. Quel filo spinato sta lì, oggetto anormale in un contesto dove sembra normale. Qui tutti ridiamo, scherziamo, mangiamo e il filo spinato sta lì, accanto a noi. I diari che raccontiamo in questi sabato pomeriggio sono diari che arrivano o da molto lontano, nel tempo, ad esempio storie che arrivano addirittura dal secolo scorso, grazie appunto alla collaborazione che abbiamo con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Ci sono diari che arrivano invece lontano, semplicemente nello spazio. È il caso di oggi, è il caso della storia di Gabriele e il suo diario dalla Bolivia. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo è I Diari di Voi Siete Qui. Pagine di diario che potete inviare a Voi Siete Qui, @radio24.it, oppure semplicemente stando ad ascoltandovi queste storie. Questa che stiamo per leggervi è la storia di Gabriele, appunto, che nel 2008 va in Bolivia con un progetto del VIS, del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, e di fatto fa l'educatore per i ragazzi boliviani. Sono pagine anche abbastanza crude che raccontano la realtà che vede lui, che vede Gabriele giorno per giorno appena arrivato in Bolivia. Questa è la sua storia, questo è I Diari di Voi Siete Qui. Oggi la prima esperienza in strada. Mi accompagna un'operatrice, Carmen, una robusta boliviana trentenne di poche parole che va in strada con l'obiettivo di conoscere i ragazzi e cercare di indirizzarli in strutture dove possono iniziare un percorso. Con sé porta sempre una valigetta di medicinali. Per strada le ferite sono ricorrenti, i ragazzi spesso si autolesionano. La strada è mille volte quello che già avevo percepito. Sangue, ferite, pus, sporcizia, piedi e mani nere, canali, droga. E poi, occhi da bambino, occhi buoni. Daniel mi vede da lontano, sta aspirando la colla e mi riconosce subito. Mi avrà visto forse a Teco. Da sotto il canale agita la mano per salutarmi, sembra contento. Scendiamo nel canale, una decina di ragazzi dormono, tramortiti dalla droga. Daniel è l'unico sveglio. Ha un occhio nero, gonfio. Accanto a lui una donna, donna di strada, di quelle di cui l'età è impossibile da riconoscere. È seduta, è accasciata su di sé, la testa fra le gambe e un fiume di capelli sporchi coprono il corpo, ma lasciano scoperte le mani. Unghia e smalto rosso semiscrostato e il nero della strada che la ricopre. Daniel chiede subito di venire via da lì, chiede di venire con noi. Carmen è fredda. Non so, non la capisco, io lo prenderei e lo porterei subito via. Vieni qui, Daniel, dammi la mano e andiamo. Eppure mi freno, cerco di capire perché Carmen sia così fredda e perché gli risponde che non può portarlo via, che sarebbe ripassata l'indomani. Guardo i suoi occhi da bambino. Portiamolo via, Carmen, vorrei dirle. Portiamolo via subito. Ma non posso fare nulla. Ci allontaniamo. Daniel mi sorride con i suoi occhi da bambino e un occhio nero e mi saluta. Una mano si muove, dice ciao. L'altra continua a tenere la colla vicina al naso. Da sopra il canale, l'ultima immagine che vedo è una manina sporca che si muove. Ciao. A patio incontro Christopher, che è di poche parole. Con lui devo recarmi in Grania. O Grania, la fattoria dove lavorerò e dove i ragazzi di strada, quando decidono di iniziare un percorso, passano un anno della loro vita nel tentativo di imparare a reintegrarsi, immersi nella natura. Grania si trova ad un'ora di viaggio da Santa Cruz. Grania continua ad essere per me un concentrato di emozioni contrastanti. Provo insofferenza. Insofferenza per il sistema educativo applicato che, a mio parere, è profondamente sbagliato. Castighi e lavoro e poca dolcezza. Addirittura ho visto un educatore tenere per le braccia un bambino nel tentativo di farlo lavorare con la forza. Il bambino divincolandosi è corso via. Un pomeriggio li trovo che sguazzano dentro un'aula con il pavimento bagnato, appena bagnato per le pulizie di turno. Si lanciano scivolando da una parete all'altra. Facciamo un patto, ragazzi, gli dico. Quale patto? Questo, ora noi giochiamo qui, io porto anche il sapone. Ci tuffiamo sul pavimento, a patto però che dopo puliamo bene tutto, non solo quest'aula, anche il pavimento di fuori. I ragazzi sono contentissimi, accettano il patto. Porto il sapone, mi tuffo con loro, schizzando da una parete all'altra e scontrandomi coi corpi scivolosi e bagnati. Li prendo, li lancio come palle da biliardo, loro ridono e si fiondano su di me. E per qualche momento io sono come loro. Da soli dopo prendono stracci, lavano e asciugano tutto. Felici, felice. Insomma, siamo nel 2008, siamo in Bolivia e questo è un piccolo pezzo del diario che ci ha mandato Gabriele, cioè che ci ha mandato l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, ma che appartiene, è stato scritto da Gabriele e abbiamo lui che ce lo può raccontare meglio. Pronto Gabriele, buongiorno? Ci sono. Ciao, come stai? Bene, sto al caldo di Palermo. Ah, ok, perché fa ancora caldo ancora in questi giorni, giusto, Palermo? Considera che ieri sera sono andato a farmi una passeggiata e c'era il cinema all'aperto, quindi al centro di Palermo c'era gente messa sui tavolini che guardava uno schermo attaccato a un muro e beveva così tranquillamente. Senti, tu sei palermitano, Gabriele, oppure sei... Io sono un miscuglio, sono un po' palermitano, un po' romano, un po' abruzzese... un minestrone. Quindi sei lì per lavoro o sei lì per motivi tuoi? Ho scelto di vivere a Palermo. Ah, ok, quindi vivi proprio a Palermo. Sì, okay. Sì, anche se viaggio tanto. Che un po' ti ricorda quel pezzo di America Latina che hai vissuto, nel senso che Palermo forse è una delle città più latinoamericane che abbiamo in Italia, no? Non saprei dirlo, nel senso che secondo me no, nel senso che la Bolivia è proprio un mondo a parte, quindi non la identifico assolutamente con Palermo, però senza dubbio forse per l'immaginario popolare Palermo è una città calda e quindi sia per il tempo sia per la cultura forse per stereotipo ricorda l'America Latina. E era il 2008, giusto? Quindi erano 6 anni fa. Sì. Ci racconti, l'abbiamo già accennato in apertura, perché e come sei finito in Bolivia? Non so neanche io bene perché, da quando ero maggiorenne avevo questo desiderio di fare un'esperienza di lavoro all'estero o anche volontariato e questo desiderio si è conservato dentro me finché l'ho realizzato, avevo finito dei contratti lavorativi, si era aperto, diciamo, fra virgolette, un varco temporale in cui ero libero. Okay. Ho partecipato al bando del servizio civile all'estero dello Stato italiano. E tu esattamente cosa facevi là, Gabriele? Lavoravo come educatore di ragazzi di strada in un progetto gestito dai Salesiani, da una ONG che si chiama VIST, per il recupero e la reintegrazione dei ragazzi di strada, che è un mondo un po' sconosciuto, forse ricorda un po' quella immagino dell'Italia negli anni 50, 60, non lo so. Forse. Ed è ancora così, che tu sappia, dopo 6 anni la situazione è cambiata? Sì, no, sì, è ancora uguale. Sì. La Bolivia è un paese molto povero e con tanti problemi, fra cui l'alcolismo, e quindi in genere le famiglie sono abbastanza disgregate o con grandi problemi, spesso causati dall'alcol. Quindi la situazione classica è che il marito torna a casa ubriaco, magari urla o picchia la moglie. Chiaro, guarda, dal tuo diario abbiamo letto proprio le pagine legate al ragazzino sotto il ponte che annusa la colla, sono tutte abbastanza chiare. Gabriele, io ti ringrazio molto, purtroppo devo salutarti perché non ho moltissimo tempo, però ringrazio te e ovviamente l'archivio di Pieve Santo Stefano per averci regalato queste tue pagine di 6 anni fa. Grazie ancora. Ok, va bene. Ciao Gabriele, buona giornata. Grazie. Ciao Matteo e redazione tutta, finalmente trovo il tempo di scrivervi, di mandarvi la mia storia per i diari del sabato. Okay, comincia così la mail che ci ha mandato Erika e che ci ha spedito proprio per la puntata del sabato di Voi Siete Qui, cioè quella che state ascoltando, che si chiama appunto I Diari di Voi Siete Qui. Dicevo, quando abbiamo cominciato a chiedere i diari agli ascoltatori, che sono diversi dalle storie, perché di solito chiediamo una storia, chiediamo un episodio che vi è accaduto e in quell'episodio noi vi chiediamo di trovare qualcosa qualcosa che racconti qualcosa di voi. I diari invece di solito sono già stati scritti, sono stati messi in un cassetto, oppure se li scrivete tutti i giorni, se avete un blog, non è più così di moda il blog, non si usa più così tanto, però è tutto materiale d'archivio, è tutto messo lì. Ed Erika ci scrive esattamente così: io scrivo da quando avevo 6 anni nel mio diario, ora ne ho 26, quindi sono 20 anni di pagine di diario. Sono un modo per trasformare, dice, in parole le mie sensazioni, visto che non sono sempre una buona oratrice. E poi lo faccio perché mi piace materialmente l'atto dell'appoggiare la penna sulla carta. Quindi evidentemente Erika ha fatto quello che abbiamo chiesto, cioè ha trascritto in un file, in un formato Word, il suo diario. Nell'ascolto del suo diario dovete fare attenzione, cioè dovete rendervi conto del fatto che lei ci ha mandato degli stralci presi da 4 momenti diversi. 5. Sono i 5 anni, quindi evidentemente una bambina prodigio perché scriveva ancora prima dell'elementare, i 18, i 21 anni e i 25, quindi erano 4, avevo ragione prima. Ci ho tenuto a correggermi e 5, niente, sono 4. Ringrazio Miriam che se la ride dall'altra parte del vetro come se fosse un imbecille qualunque, ed effettivamente un pochettino c'hai ragione. Quindi quello che sentirete sono proprio dei pezzi di vita di Erika, e rappresentano non solo il modo di scrivere di momenti diversi della vita, ma soprattutto rappresentano essenze di momenti diversi della nostra vita. Ed è quello che cerchiamo di fare attraverso questo programma, attraverso i diari di Voi Siete Qui. Se volete continuare a mandarcelo, a mandarci pagine dei vostri diari, l'indirizzo è sempre quello, è voisietequi@radio24.it. Partiamo dal 1993, quindi si parla di 21 anni fa. 21 anni fa. Erika ha 5 anni e scrive così. ...1993... 5 anni. In un bel bosco viveva una lepre molto laboriosa. Aveva una tana sempre ben pulita e ordinata. Lidia, così si chiamava la lepre, aveva però un piccolo problema che le impediva di essere del tutto felice. Era molto paurosa, ma diceva a se stessa che un giorno o l'altro sarebbe cambiata. Allora avrebbe attraversato il bosco senza alcun timore di incontrare altri animali più grossi e si sarebbe fatta rispettare dai cacciatori. 3 maggio 2005, 18 anni. Ho capito che non posso limitarmi ad avere grandi e begli ideali per tutta la vita e basta. Serve anche la ribellione, la proposta, il coraggio e l'azione. Che bello Bread and Roses di Ken Loach. Infatti adesso c'ho su La casa del vento. Interessantissimo oggi con Italo, a tal punto che anche se non ho visto Samu, io, Cree e Mari, amiche per sempre, anche se si continua a discutere, ce la faremo. Ora vado, speriamo che Damiano sia forte. 17 maggio 2009, 21 anni. Che giornata magnifica. Giorgio Canali dice: c'è tanta roba che mi fa male, eppure tu resti anche se lo fai. La pelle d'oca col suo precipito. E poi Dente, che bello, il mio cantante preferito. È il cantante mio e di Cree. Gli abbiamo dato anche una spilla. Le nostre avventure, come sono contenta di essere andata con lei, la mia Chicchi, la adoro. Abbiamo parlato, cantato, ascoltato, bevicchiato, ci siamo sentite amiche nel più profondo. Anche la canoa è stata una prova non da poco. Come vado in crisi appena non riesco ad avere un controllo semirazionale sulle cose. Forse io e la Cree insieme siamo una bomba. Sono felice di essere andata con lei. 25 novembre 2013, 25 anni. Caro diario, questo è davvero il mio ultimo giorno. Esattamente 6 mesi e un giorno fa ero impaurita dall'altra parte della città. Non so, non immaginavo nulla. Probabilmente le cose non sono andate come speravo. Però un po' ero diventata la Erika anche qui e questo è stato bello. Ora spero che Roma sia clemente con me, anche se il mio carattere è un po' più British. Ecco, insomma, spero che mi accoglierà bene. Grazie Cambridge, sei bellissima. Io ti ho vista con calma. Ho potuto scoprirti da sola, apprezzare i tuoi scorci, assorbire il sole nel parco in quelle giornate vuote. Sei stata una palestra di vita difficile a tratti, ma sono sicura che mi servirà. Anche incontrare lui è stato bello. Vabbè, taglio. Ho un sacco di paura, ma ce la farò. Hey there, sunshine, lift my heart. I know life is long, but it bones. Come on, make some big jumps, life is yours alone. You hold your head up high like you think I do. Do, do, do, do, do, do, do, do. Io, a differenza di ieri, che invece non sono mai riuscito a tenere un diario vero, cioè un diario vero e proprio, che cominci e tutte le sere o anche una volta a settimana ti metti lì canonicamente e scrivi: caro diario, oggi è andata così, così, così. Però mi ha fatto venire in mente il suo pezzo che parla di Cambridge, quindi di una vacanza studio, che scrisse una cosa simile esattamente quando mi trovavo a vicino a Cambridge, non è vicino a Cambridge, ma erano quei due o tre posti in cui si andava con la F a fare Brighton, che era tipo la Rimini d'Inghilterra, dove non si sa perché il mercoledì sera c'era la caccia all'italiano, o perlomeno questa era l'idea, che cercavano gli italiani in teoria per picchiarli, non si capiva bene perché. C'era questa leggenda metropolitana e io ero terrorizzato, e mi ricordo che avevo scritto una lettera a mia mamma, che non l'avevo mai mandato, in cui dicevo: mi sa che stasera sto a casa perché c'è la caccia all'italiano. Non l'ho mai più ritrovata, fortunatamente, perché sennò sarei morto di imbarazzo. Andate a Brighton se vi capita, sul Molo 51 fanno delle fish and chips, sai quelli che dico, statevi una volta, andate la fan delle fish and chips, buonissime. Molo 51 o 31, ma in fondo chi se ne frega anche di Brighton. Grazie mille a Pietro Lacorte, a Miriam Lucchetti e a Tiziano Bonini, come al solito. Grazie soprattutto a Gabriele ed Erika, perché i diari di oggi erano i loro, e anche loro sono due punti rossi su una mappa.